de sto cuore tenga una faccia, che alla finestra o alla prigione s'affaccia, che vuole uscire per baciarti per ore. Immondo visione, arrende sto cuore tenga un colore talmente bello che non ha neppure un nome, ma è lì per darti briezza e calura. Renda sto cuore tenga una barca veloce, bella, spaziosa, radiosa, per navigare dentro la tua vita gioiosa, o eventualmente poter issare una vela, poter scappare via mare quando la cosa si fa un poco troppo noiosa. Rinda sto cuore tenga una gomma per cancellare cosa brutta sbagli di mamma. Lo so, di mamma ce n'è una sola ed è una cosa meravigliosa, per ogni mamma sbagliata qualcosa. E allora o alla prigione s'affaccia, ma rinda sto cuore tenga anche un dolore e la tristezza d'un telegiornale. Una vecchia ruota di bicicletta da aggiustare, un flipper scassato che non vuol più funzionare, e altre ruzzimme, altre rottame. Ma non è di questo che voglio parlare, voglio dire che rinda sto cuore, tengo il tuo cuore e fanno un ballo che è bello, assai bello, come una danza rallentatore. E allora yeah.